odore è come una fragranza dell'assente, in cui eterna è la complicità dei sensi. Odore di fiori di pesco, di fiori di carta, di fiori di un mutilato albero in cui ancora scorre il suo lento sangue. Penetrazione dolce, penetrazione inconscia di un'idilliaca quiete suadente. Un'idilliaca quiete sudente. Di un'idilliaca quiete suadente.